Siete impagabili in quanto a disonestà intellettuale lì a Radio 24, poi Milan è il capo. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui alle 9:06 minuti, cari ascoltatori, ci siamo per una nuova puntata fino alle 11 di Uno Nessuno 100 Milan, che ne dica, che ne voglia Leonardo Manera, fino al 24 di dicembre. Siamo qui in diretta con voi per tenervi compagnia, ma saremo anche con voi durante le vacanze di Natale con delle puntate speciali. E allora, saluto tutti dall'Alpino in regia, la nostra redazione, Lorenzo Nespoli, Mine Lucchetti, Elisabetta Fusconi. E che dire, i numeri sono i soliti, 800. Comunque, per la precisione, 349, sì, 238, 6 Milan 666. Sì, sì, sì. Così proprio non lo capirà mai nessuno. 349 238 6666. Questo è il numero per i vostri WhatsApp. Ormai tanto l'avete memorizzato, no? Dopo quello del commercialista e prima di quello dell'amante sul vostro telefonino. 800 24 0024 invece è per chiamarci in diretta, intervenire. Oggi parliamo di tanti temi, parliamo di vaccini, parliamo della variante inglese, e poi parliamo di tante anche altre cose. Avremo ospite anche un grande ex campione dell'atletica, Totò Antibo, ve lo ricordate? Salvatore Antibo, che ha vinto gli europei, ha vinto la medaglia anche alle Olimpiadi, medaglia d'argento, e si sente, è in grave difficoltà di salute, si sente abbandonato, uno che ha dato tanto per i colori azzurri, ma lo sentiremo alle 10. Vai! I will not be easy and it will not be easy. Rock duro. Rock durissimo. Allora, signori, sono le 9:09. Io devo dire, fatemi fare un po' di ironia. Ricordatevi sempre la frase di Marianne Satrapi, grande scrittrice iraniana, che ho appeso lì vicino alla mia scrivania: l'umorismo è la chiave di tutto, è la chiave della salvezza. Se sappiamo sorridere, possiamo salvarci tutti quanti. E allora inizierò con un pizzico di ironia. L'ironia, perché la variante inglese, leggevo un po' di la variante inglese, la moglie del soldato inglese. Sapete che è nato tutto in Italia, il primo caso è la moglie di un soldato inglese, il dottore del Celio. Sentivo Paolo Mieli su Le Monde, c'è la variante sudafricana, ma non sono degli splendidi titoli di un libro di Graham Greene? Proprio. Tra l'altro ho scoperto che, scrive Repubblica, la moglie del soldato inglese è una 007 italiana, dipendente dei servizi di sicurezza italiani. Cioè, vabbè, ma voglio dire. Ecco, fatemi iniziare con questo pizzico di ironia, un po' come fa amaramente Massimo Gramellini oggi con il suo caffè in prima pagina del Corriere della Sera. Nella gerarchia del terrore, scrive Gramellini, la variante inglese ha già soppiantato il semplice Covid, degradandola ad angoscia secondaria. Di lui si comincia a parlare non certo con nostalgia, ma come di un vecchio terribile balordo col quale si stava faticosamente venendo a patti. Super Covid invece all'energia, l'imprevedibilità degli esordienti. Sarà disposto a lasciarsi domare dalla campagna d'inverno delle vaccinazioni di massa che il nostro governo si accinge a lanciare con le capacità logistiche e organizzative di cui ha già dato così ampia prova? L'origine inglese della variante non tranquillizza. Si sa come siano orgogliosi e bizzarri da quelle parti. Non tranquillizzano nemmeno i virologi. Mentre facevo colazione sono riuscito a sentirne uno che negava la maggiore letalità del nuovo venuto e un altro che in piena estasi catastrofista ne illustrava le potenzialità devastanti. Ho reagito come le borse, precipitando nel panico. E il panico ti fa perdere il senso delle cose. Non esiste una sola prova che Super Covid sia refrattario ai vaccini, mentre si sa per certo che è contagioso il triplo e rischia di intasare le terapie intensive. E prima che dai vaccini, fermarlo dipende dunque da noi e nel solito noioso modo, aumentando le precauzioni. Ma a questo punto della pandemia la stanchezza è tale che il terrore diventa quasi un analgesico. È più semplice prendersela con la scienza che scomodare la coscienza, specie se si tratta della propria. Massimo Gramellini, ma noi dall'Inghilterra proprio vogliamo partire? Io voglio salutare un medico, Pierluigi Struzzo, un medico italiano pensionato che da Udine a Londra si è trasferito un po' di anni fa. Buongiorno dottor Struzzo, grazie di essere qui. Buongiorno a lei, a voi, a tutti, buongiorno. Da quando si è trasferito a Londra? Ma dal 2019. Ah, da poco. Due anni. Adesso siete isolati, lo sa che c'è la variante inglese? No, ma adesso io sono ben ritornato qua in Italia. Con l'ultimo volo, diciamo, mi volevano rimandare indietro col volo che è atterrato. Mi hanno tenuto, non a me ovviamente, a tutto l'aereo. Mi hanno tenuto là, però ce l'ha fatta. Ce l'ho fatta per fortuna, per stare in casa, in famiglia, per le vacanze, no? Sì. Però lì è un serio problema, poveri. È un serio problema, anche se poi leggerò magari dei dati che ho letto oggi sul Foglio, molto interessanti. Allora, ci aiuti a capire, dottor Struzzo, perché lei fa parte dei medici che hanno iniziato le vaccinazioni. Sappiamo che in Inghilterra hanno iniziato prima di noi, no? Sì. Allora, come procede lì? Procede che prima di tutto non sono tutte le practice che fanno la vaccinazione, perché c'è quel problema del congelamento e scongelamento dei vaccini, per cui bisogna avere delle grosse practice e che hanno degli spazi dove possono entrare tante persone e stare, e noi purtroppo dove lavoro io sono una piccola practice, per cui non sono ufficialmente quello che fa nella task, poi hanno creato una task force, cioè non sono i medici delle practice che fanno i vaccini, perché altrimenti anche gli altri pazienti come farebbero ad arrivare? Quindi hanno creato dei medici nuovi, dei infermieri nuovi, che stanno adesso, sono 245 in tutta l'Inghilterra, queste grandi centri vaccinazione appositamente allestiti, quindi non è come facciamo noi la vaccinazione antinfluenzale. Li hanno fatto questi centri, fatto conto degli ospedali o anche dei centri sportivi, li hanno allestiti. E dove stanno facendo queste vaccinazioni, ma ci sono dei seri problemi logistici. Ecco, perché lei ha già spiegato, e sta spiegando bene anche adesso, che vaccinare, cioè una campagna di vaccinazione di questo genere, non è una questione secondaria dal punto di vista della logistica, anzi è molto complicato. Intanto perché ci spieghi, la vaccinazione va fatta poi con un richiamo nel giro di dopo tre settimane. Sì. Quindi sono due le iniezioni che bisogna fare. E poi nelle fiale che arrivano non c'è il prodotto per una vaccinazione, no? Per 5 o 6. Allora, io le faccio soltanto un esempio delle vaccinazioni antinfluenzali in Italia, come le facevo qua. Quando si apre la campagna si dice venite pure, e il medico stabilisce mezza giornata, ogni ora. Io facevo all'inizio di ogni ambulatorio e la gente veniva autonomamente quando voleva, all'ora che voleva. Io la registravo nella propria scheda, li facevo la vaccinazione, aspettavano un po' e poi se ne andavano. Questo perché i vaccini ce l'avevo nel frigo, lo tiravo fuori e lo facevo anche durante le visite. Sì. Però se mi arriva una scatola che dentro ha fino a 975 vaccinazioni da fare, cioè sono 100 e passa scatole, flaconcini da 5 vaccinazioni ciascuna. Sì. Io le devo scongelare tutte quante, ma prima di scongelarle deve aver chiamato e fissato gli appuntamenti. Certo, ma certo. Certo, allora devo stabilire ogni quanto, ogni 10 minuti, ogni 15, ogni 7, poi per fare 975 vaccinazioni in 3 giorni e mezzo, perché questo è il tempo che durano i vaccini fuori, diciamo, dal congelamento nel frigo normale, durano 3 giorni e mezzo. Quindi io devo in pratica organizzarmi per farlo questo. E cosa succede? In Inghilterra facevano il primo giorno 408 vaccinazioni, il secondo giorno altre 408, sì, il terzo giorno ne facevano le rimanenti 160 e così arrivavano su 970 vaccinazioni. Se però non tutti i pazienti vengono, perché si dimenticano, perché soprattutto poi gli anziani anche, no? C'è il rischio di buttare delle dosi, tra l'altro. Infatti io nei nostri giri WhatsApp di medici eccetera, c'erano medici che chiedevano aiuto, uno diceva: mi mancano 500 pazienti, mandatemi i pazienti, perché per molti... Insomma, diciamo che, vista l'esperienza che lei sta facendo in Inghilterra e vista la come dire, l'ho scritto Gramellini, quindi la scarsa propensione all'organizzazione che abbiamo in Italia, ma scherzo, diciamo che qualche problemino di organizzazione, di logistica, ma provi soltanto a pensare di andare a prendere i vaccini. Noi ci dicevano: venite all'USL a prendere i vaccini o lunedì o martedì. La gente, i medici, devono andare a prenderselo, se lo si fa nelle singole practice in Italia, o il lunedì o il martedì, perché se vai il mercoledì non riesce a fare tutti i vaccini. Ma vediamo, io non lo so, diciamo che lei ci racconta che non è facile, ecco, non è come dire vado dal medico, oppure vado in una struttura con la primula, magari in Italia facciamo le primule. Poi deve diluire, deve tirare su bene le dosi giuste, ma dai, una roba. Abbiamo un corso di formazione online di 4 ore, dopodiché una certificazione che possiamo farla. Io sono fra quelli che sono in stand by, che sono disponibile per farlo. Infatti rimanga in Italia, dottor Struzzo, visto che lei già lo fa in Inghilterra, è abile, arruolato, lo faccia da noi. Però rimanga con noi, perché ci ha raggiunto, lo ringrazio e lo saluto, Enrico Bucci. Enrico Bucci è un docente di biologia alla Temple University di Filadelfia. Scrive sul Foglio una rubrica che vi consiglio, Cattivi Scienziati, tutti i giorni, scrive da mesi sul virus. Buongiorno professor Bucci, grazie. Buongiorno. E oggi ovviamente ieri ha scritto molto sui vaccini Novax e dopo mi interessa, e oggi ha scritto su questa variante inglese. Lei non era collegato, ironicamente ho detto, ma sembrano quasi dei titoli di un giallo di Graham Greene, no? La variante inglese, la variante sudafricana, la moglie del soldato inglese, no? E adesso c'è anche la vicenda del Celio, mi permetta di ironizzare. Lei però oggi spiega benissimo perché soprattutto in Inghilterra hanno trovato la variante, lo vuole spiegare ai nostri ascoltatori? Sì, certo, intanto i titoli che lei citava hanno esattamente la stessa funzione, cioè quella di attirare l'attenzione del pubblico, quindi non è un caso questa similitudine. In ogni caso noi dobbiamo sapere che in tutto il mondo si sequenziano isolati virali, quindi si ottengono nuove sequenze di nuove varietà virali sostanzialmente ogni giorno. In questo momento ce ne sono quasi 275.000 in un database unico che si chiama GSide, e di queste 275.000 più del 45% sono state ottenute a partire da aprile in Inghilterra. Quindi è ovvio che se io cerco soprattutto in Inghilterra, quasi tutto quello che troverò di nuovo sarà in Inghilterra. No, però ecco, si fermi su questo numero, professore, diamolo bene agli ascoltatori. Cioè, avete capito, 275.000 le possibili... Oltre 275.000. Cioè, e adesso a fare i titoloni, questo lo dico ai colleghi della comunicazione, sulla variante inglese. Ma ragazzi, poi dopo la gente cade nel panico, no? Professor Bucci. Certo, devo dire che in questo caso, se mi permette di spezzare una lancia a favore dei suoi colleghi, questo questa manipolazione dell'opinione pubblica è cominciata da un ministro, cioè è cominciata da un ministro della salute inglese che ha dato una notizia senza nessun dato in appoggio e senza neanche ben definire di che cosa si stava parlando prima ancora che fossero disponibili i dati per capire di che cosa stava parlando. Quindi in realtà i giornalisti hanno rilanciato una notizia che però è stata creata d'arte da però, qualcuno. Lei mi insegna che appunto c'è un politico che quindi non sa di scienza come non so di scienza io, mentre lei sì. E dei giornalisti o comunque tanti colleghi che non sanno di scienza, diciamo, ripetono a volte anche un po' pappagallo, un po' perché, come dice lei, fa titolo, no? È bello. Apro il telegiornale con una bella notizia, è arrivata la variante inglese, e questo però genera un po' di... Beh, lei se per questo, diciamo, vende per tre giorni di fila, perché il primo giorno vende la variante inglese che provoca disastri, il secondo giorno vende le smentite degli scienziati riguardo alla variante inglese, e il terzo giorno vende lo spiegone sulla variante inglese. Quindi vende un intero ciclo di comunicazione. Mi faccia sorridere, però in realtà è terribile questa cosa. E allora perché metà nazioni d'Europa hanno tutti bloccato l'Inghilterra, l'hanno isolata, l'hanno... Perché quando si trova qualcosa di nuovo, come quello che è stato trovato in Inghilterra, o diciamo... più che di nuovo qualcosa che è stato osservato per la prima volta, ecco, diciamo così, quando si trova qualche cosa che ancora non si sa bene come si comporta, si applicano delle misure cautelative. Ma questa cosa però riguarda gli epidemiologi, riguarda le autorità sanitarie, riguarda l'OMS. Quello che non deve succedere è che questa cautela si trasforma invece in terrore presso il pubblico. È un po' invece succede. Senta, il dottor Struzzo, che è italiano, adesso è rientrato con l'ultimo volo da Londra, ma fa parte già dei medici che a Londra vaccinano, ci stava spiegando come sia complicato dal punto di vista logistico vaccinare, cioè le dosi che non sono monodose, quindi bisogna convocare i pazienti contemporaneamente, poi dopo tre settimane bisogna fare il richiamo. Sarà complicato in Italia, professor Bucci? Sarà enormemente complicato, perché in Italia, diciamo, noi sappiamo benissimo qual è la situazione, basta vedere che cosa è successo nell'ultima campagna di vaccinazione antinfluenzale, che è su una scala molto ridotta rispetto a quello che si pensa di fare, con in più il fatto che questi vaccini, soprattutto i primi, cioè quelli di Pfizer, hanno, diciamo, una serie di complicazioni aggiuntive dovute alla doppia dose, e dovute anche a, diciamo, alla conservazione e al modo in cui viene confezionato il vaccino. Tutte queste sono la cosa, diciamo, che da pensare, che sono cose che sono note da mesi e che richiedevano una preparazione attenta. Noi abbiamo scritto qualcosa con Luciano Capone e si è scoperto che, diciamo, all'epoca non c'era nessun piano neanche per la distribuzione, non dico per la vaccinazione. Però, dottor Bucci, abbiamo fatto le primule, adesso ci attrezzeremo per il resto. Volevo liberare il dottor Struzzo, che so che lo devo liberare, ma con un'ultima domanda. Un commento sulla variante inglese, per quello che ha detto Matenko, che si di Stato. Il 14 dicembre ha detto che già dal 20 di settembre si conosceva nel Kent e a Londra questa nuova variante, che capisco è una delle tantissime, però quello che ha scatenato è stata la percezione del rischio dei politici, quando ha detto che c'erano 1000 casi e in novembre erano il 28% di quelli dei nuovi casi trovati a Londra. E a dicembre invece erano il 60%. Quindi la contagiosità, esatto, diciamo. E non credo che questa contagiosità sia caratteristica di tante altre varianti. Quindi credo che ci sia stato un motivo vero comunicato da scienziati ed esperti ai politici. Ecco, per cui chiedo di capire queste cose. Ma questo è quello che si chiedono tutti. Come, io nel ringraziare intanto il dottor Pierluigi Struzzo, poi vedremo se deciderà di tornare in Inghilterra o stia qua in Italia, che è prezioso visto che ha già fatto il corso per le vaccinazioni, comunque la ringrazio. Vorrei invece concentrarmi ancora con, intanto Bucci vuole rispondere, cito un'altra variante a caso, quella emersa in Repubblica Ceca, che in 8 settimane è passata dal 20% al 75%. Cioè questo, la continua emersione di nuove varianti che sostituiscono le precedenti, è un fenomeno ovvio, ben conosciuto nei virus e comunissimo. Quindi non vuol dire è una maggiore contagiosità, è che il virus, siccome ha bisogno della cellula umana, se ho capito bene, per vivere, per riprodursi, diciamo, vivere forse non è il termine adatto per un virus, e quindi si deve adattare ogni volta, si deve modificare, no? Diciamo che in questo momento vuol dire semplicemente che questo virus è in un certo senso migliore, riesce a vincere la battaglia contro tutti i suoi virus fratelli. Se lo vince perché, per esempio, ha un ciclo più veloce in umano, se lo vince perché raggiunge una carica più elevata, se lo vince per una qualunque ragione, è motivo di indagine e bisogna anche escludere che ci siano dei bias di osservazione, allora, dovuti, certo, al campionamento. Lo sapremo, ma non è adesso il momento di preoccuparsi. Allora, professor Bucci, adesso ho da farle qualche domanda riguardo l'articolo che lei ieri ha scritto sul Foglio, sul tema dei Novax, sul vaccino. Guardi, arrivano tante domande, subito mi chiedono, ci chieda se è mutagenico, cioè se cambia. Vabbè, ma adesso ci arriviamo a questo. Io ho un dato che ho preso dal suo articolo, molto interessante. Negli Stati Uniti la probabilità di ospedalizzazione per l'influenza, quella stagionale, è tra il 4 per 10.000 e il 3 per 1.000. E comunque nell'intera vita media, statisticamente, che un americano finisca per motivi seri con l'influenza stagionale, diciamo, capita 2 casi su 10.000. Con questa premessa, molte persone dicono: ma perché io devo, a fronte di questo rischio basso, vaccinarmi? Ecco, professor Bucci, come si convince un cittadino che ha questi numeri di fronte, se li vuole studiare, a dire: ma perché mi devo vaccinare? Molti ci scrivono proprio così, dicendo: ma io sono sempre stato bene, non ho mai preso l'influenza, ma perché devo rischiare anche qualche piccola cosa per... Intanto, diciamo, bisogna sempre fare un paragone tra i rischi che si corre facendo una cosa o non facendola. Cioè, la domanda corretta che uno si deve fare è: se io non mi vaccino, corro più rischi rispetto, quindi corro più rischi di avere qualche danno dal virus rispetto invece al rischio che correrei vaccinandomi, sì, di avere qualche danno dal vaccino? La probabilità di avere danni dal vaccino è infinitamente più piccola della probabilità di avere danni dal virus. Di conseguenza, diciamo, se anche faccio un bilancio costi-benefici, già dovrei trarre una conclusione. Il punto però è che in realtà questa probabilità innanzitutto non è distribuita in maniera omogenea, cioè non, quello è il valore medio che si rischia, ma i singoli soggetti, per esempio gli anziani, possono rischiare di più. E infine, la cosa più importante di tutti, siccome, diciamo, 2 su 10.000, diciamo così, finiscono male, se io moltiplico questo per la popolazione degli Stati Uniti, ottengo una cifra molto significativa di persone che andrà a intasare gli ospedali. Sì, c'è però, quindi io non c'è... faccio scelte solamente, sì, individuali, perché vivo in una collettive, società, io tutelo anche gli altri, certo, e anche gli ospedali. C'è però questo aspetto psicologico, e infatti lei lo spiega, certo, se io dico ci sono 2 casi su 10.000 che muoiono nell'intera vita per l'influenza stagionale, perché è vero che il vaccino ha un rischio minore di questi 2 su 10.000, ma perché devo andare a rischiare anche un minimo a fronte del fatto che non sarò tra quei 2 su 10.000, no? Uno la pensa così, sì, psicologicamente. Lei sta facendo la domanda in questo modo: perché devo andare a rischiare 1 su 1.000.000 invece di rischiare 2 su 10.000, che è quello del virus? Cioè, il problema è: se voglio ragionare in termini di rischio, allora c'ho una cosa in cui rischio di più e una cosa in cui rischio di meno. Io faccio quella in cui rischio di meno, certo. Non c'è, se ragiono in questi termini non devo autogiustificare una decisione che ho già preso. Ma io la penso come lei, è che anche lei ieri cercava sul Foglio di entrare nella testa di chi pensa di non vaccinarsi, certo. E sgombriamo subito il campo da una delle ipotesi: vabbè, perché il livello intellettuale, il livello di ignoranza è molto alto, il livello intellettuale è basso, e quindi laddove ci sono sacche di ignoranza ci sono più Novax. Mi hanno spiegato altri storici della medicina che è esattamente il contrario. Nazioni come la Francia, dove si studia, si approfondisce, è proprio lì che ci sono più Novax. Ma no, ma peggio ancora, diciamo, si potrebbe fare il paragone anche inverso, cioè laddove la scolarizzazione è più bassa, come nei paesi africani, quindi dove la cultura è meno diffusa, proprio in quei paesi i tassi di vaccinazione sono invece più alti. Quindi in realtà l'opposizione alla vaccinazione non ha motivazioni che hanno a che vedere con il nostro livello di preparazione, anzi è stato dimostrato che il livello di preparazione e la capacità, diciamo, di utilizzare le proprie abilità cognitive, se uno c'ha un bias contro i vaccini si ritorce contro i vaccini, cioè fa costruire delle argomentazioni che sono molto più complesse in opposizione e molto più difficili da smontare in opposizione alla vaccinazione. I Novax sono, a meno di casi in cui, diciamo, scientemente e volutamente non si usa la ragione, ma i Novax sono mediamente esattamente come tutte le altre persone, quindi razionali o irrazionali esattamente quanto i Novax. Molto spesso, professor Bucci, si informano e dicono: informati, leggi questo, guarda questo report. Questo è appunto diciamo l'elemento discriminante, cioè se un ragionamento logico-deduttivo, quindi un ragionamento, un modo di procedere razionale, parte da premesse sbagliate, premesse che io ho scelto perché compiacciono, diciamo, un mio preconcetto, quindi perché sono quelle più confacenti al mio modo di essere, una persona perfettamente razionale giunge a conclusioni totalmente erronee. E questo è esattamente quello che accade con i Novax. Cioè il problema non è quello di essere più o meno razionali, più o meno formati, più o meno intelligenti o scolarizzati. Il problema è come scelgo le premesse per il mio ragionamento. Sì, è ovviamente se le premesse le scelgo su base, diciamo, fattuale, quindi se sono abituato a selezionare il più possibile evidenze di fatto, arriverò a delle conclusioni. Se invece sono abituato a scegliere i fatti che mi piacciono, arriverò alle conclusioni che dipendono da ciò che scelgo. Ovviamente, professor Bucci, molti chiedono: ah, ma i casi di allergia, è vero, ce ne sono stati, ma se ho capito bene, reazioni a persone che in Inghilterra avevano già avuto gravi casi di allergie e che comunque sono stati casi limitati numericamente. Però giro la domanda a lei sulle allergie e sull'antigenico, cioè sull'idea del vaccino che ci cambia, ci modifica il DNA. Allora, per quello che riguarda le allergie, e non solo le allergie, ma anche effetti collaterali i più strani e inconsueti, se noi andiamo a vaccinare miliardi di persone, come ci stiamo accingendo a fare, per di più in un tempo ristretto, come anche ci stiamo accingendo a fare, noi osserveremo in un tempo che sarà il tempo di 1 o 2 anni delle reazioni allergiche o delle reazioni strane ai vaccini che non abbiamo mai osservato prima. Sarebbe la stessa cosa che se noi pigliassimo tutta la popolazione umana e improvvisamente decidessimo, non so, di tenerla un minuto sott'acqua. Vedremmo delle cose su 7 miliardi di persone, vedremmo delle cose assolutamente inconsuete, pur se l'acqua normalmente non è che fa particolarmente male. E questo quindi dipende semplicemente dal fatto che noi stiamo ampliando enormemente il campione su cui facciamo osservazioni, e per di più queste osservazioni le facciamo in un intervallo di tempo più ristretto, con un'attenzione mediatica. Quindi mai ci vista. Sarà inevitabilmente un numero di reazioni, anche perché il vaccino è un farmaco, quindi una qualche effetto collaterale può farlo. Ci saranno racconti da tregenda, del resto sono ben descritti gli effetti collaterali dell'eccessiva ingestione di acqua, quindi voglio dire si possono avere effetti collaterali sulle modificazioni genetiche. Queste invece sono, diciamo, qui siamo appunto nelle argomentazioni capziose che vengono utilizzate da coloro che hanno una specie di formazione culturale per arruolare altri Novax o convincere della bontà delle proprie idee. Cioè, noi stiamo somministrando, nel caso di Pfizer e nel caso di Moderna e nel caso di altri vaccini in sviluppo, somministriamo un RNA. Nel nostro corpo umano ci sono decine di migliaia di RNA per cellula, per singola cellula, che vengono fatti di continuo. Se l'RNA da solo avesse capacità trasformante, sarebbero i nostri stessi RNA a trasformarci. Quindi insomma, questa è la risposta. Professore, io mi devo fermare, ha detto tante cose, ma tante cose anche interessanti. Il professor Enrico Bucci, ripeto, cattiviscienziati.com è il suo blog, se volete lo leggete anche sul Foglio tutti i giorni, insegna biologia alla Temple University di Philadelphia, fa anche parte dell'associazione Luca Coscioni, ma comunque la risentiremo, professore, perché adesso arriveranno ovviamente i dibattiti sul vaccino. L'ultima cosa, come ha scritto Michele Serra, ma l'ha detto anche lei, non dovremmo fare dibattiti sul vaccino, a meno dibattiti affidati a persone che io per primo non ne so nulla di vaccini, però inevitabilmente i dibattiti partiranno. E allora, un minuto secco di pubblicità e siamo con voi e con Leonardo Manera. 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, la sanità di base, medici condotti, ambulatori, se non si investe in qui, saremo sempre da capo con gli ospedali pieni. La sanità di base. Ma perché in Italia alla radio i professori tutti parlano sempre solo di complicazioni, di problemi? E non si pensa invece di creare una situazione di tranquillità. Qua si crea solo disagio. Milan, il grande tema non è tanto la variante 1, 1000 o 20.000. È che se tu obblighi le persone a non passare nel comune di fianco per mesi e poi consenti a gente che arriva da un altro stato di entrare senza nessun tipo di controllo preventivo, evidentemente qualcosa non funziona. Milan, ma quale è complicata la campagna vaccinale? Noi abbiamo le primule nelle piazze. Di cosa ti preoccupi? Milan, lei ironizza e minimizza. Qua se c'è uno che minimizza è solo Leonardo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. È lo stesso? Sì, è sempre lo stesso abitatore. No, vabbè, sto cambiando la targhetta nel citofono anche oggi. Va via, sei il nuovo. Vabbè, prima era suddito, poi schiavo Leonardo Bonetti. Sì. Sei bizzoso e stizzoso, quindi adesso cosa avrai messo? Leonardo Bonetti Manera con variante inglese. Spiego perché. Poi la gente ti evita se c'è la... No, siccome ieri mi hanno consegnato la notifica di una multa, spero che il postino arrivando e vedendo con variante inglese non si spaventi più e non mi consegni la notifica della multa. A quel punto, non avendo la notifica, non sono costretto a pagare. Ma siamo sicuri? Hai detto che ieri non avevi tempo per andare a controllare. Non sono andato ieri, ma mi hanno detto in base al codice che c'è che si tratta di una multa, quindi spero che questa mia scaltrezza nel mettere con variante inglese possa tenere lontani i postini. A proposito di scaltrezza, leggi quei Franco Locatelli che è, insomma, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, intervistato dal Fatto Quotidiano, dice: mi auguro, anzi riapriranno le scuole il 7, perché è una priorità assoluta. Non sei scaltro tu, non sei scaltro. No, vediamo. Non ho ancora capito, adesso dicono che saranno un po' scaglionati gli ingressi, sì, no? A quanto pare nelle scuole, 8:15, 9:30. Sì, non ci capisco. Vedremo. Niente. Vorrei dare una risposta a quello di cui parlavate prima, perché alcuni sono scettici riguardo ai vaccini. Perché? Basta guardare una puntata di Report. Io era un po' di tempo che non guardavo Report su Rai 3, ieri sera l'ho guardato. Allora, a vedere una puntata intera di Report, ci sono talmente tante cose. Non che anch'io specifico... che anch'io chiamo Report, anche se sarebbe Report, ma a me piace il Report. Report. Vai. Ecco, guardando quella, una puntata, credo qualsiasi di quella trasmissione, c'è l'idea che ci siano così tante cose oscure dietro ai meccanismi, diciamo, che reggono il potere, che da un certo punto di vista è normale che il cittadino comune come me poi cominci a farsi delle domande da tutte le cose che provengono Beh, ieri sera sono rimasto abbastanza sconcertato, insomma. Comunque, quindi, cioè, a proposito... È normale che poi il cittadino si ponga dei dubbi, delle domande, dirà ma sarà tutto chiaro, la luce del sole, però... sarà tutto trasparente, sarà tutto regolare. E quindi nasce un po' anche da quello, dall'esperienza passata. Poi anch'io mi farei il vaccino e quando sarà disponibile anche per me lo farò. Però insomma magari questo scetticismo nasce anche dall'esperienza di gestioni non proprio però trasparenti però la comunicazione, ci ha spiegato anche prima il professor Bucci, effettivamente può anche creare dei danni, cioè ci ha spiegato che ci sono 275.000 e più varianti registrate, di cui 45.000 in Inghilterra, e adesso la variante inglese. Ci ha anche spiegato perché quando arriva una variante non è che contagia di più, è che quella variante di virus si impone su quelle precedenti di virus e quindi i contagiati sono di quella variante, ma non è che è più contagiosa, è che soppianta le varianti precedenti. E poi legge a pagina 4 in basso della Stampa il professor Perno, direttore di microbiologia al Bambino Gesù di Roma. La vaccinazione funzionerà lo stesso e da un punto di vista scientifico questa storia della variante inglese è una notizia attesa e neppure la prima di questo genere. Sempre il professor Locatelli sul Fatto Quotidiano: il ceppo di Londra cambia poco. E allora, cioè, è da due giorni che ci stanno terrorizzando con questa variante inglese, poi la scienza a cui ci dovremmo affidare dice che in realtà questa storia della variante di Londra non... devi dirlo ai tuoi colleghi, non devi dirlo a me, non sono giornalista. Ma ha ragione il professor Bucci, è bello vendere dei bei titoli di apertura dei telegiornali, dai, questa è la verità. E non sto dicendo che non ci sia l'epidemia, perché do una testata in faccia a qualcuno se me lo dice, va bene? Così, con serenità. Gianfranco da Milano, buongiorno. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno Milan, eccoci. Mi senti bene? Benissimo. Sì, senti, io ti ho chiamato perché per farti i complimenti prima di tutto, perché tu, come quel signore là che andava in Senato e diceva dell'Enda Cartago, ogni tanto fai delle campagne simili. Addirittura, sì. Sì, beh, insomma, ecco. Partiamo male proprio con i complimenti a me, è un inizio sbagliato. Vai. Era giusto dell'Enda Cartago, sì, ragazzi, sì, altro che balle. No. Allora, hai fatto questa bella campagna anche per i... pescatori, ecco, io vorrei chiederti, mi piacerebbe che tu facessi un'altra campagna, cioè questa storia della vaccinazione e non della vaccinazione. Sì. Prima di tutto credo che ci si debba preoccupare se riescono, se questi cialtroni, che, dico cialtroni in genere, che si preparano a organizzarla, che non parlano ancora di come la organizzano, io credo che qualcuno ci deve dire pubblicamente come la organizzare, cioè lo diranno il 27 si parte, lo dicono adesso, no? Lo dicono, cioè prima di partire, forse io ho proprio sentito questo medico che ha parlato da te questa mattina, no? I problemi sono tanti, sono problemi pratici. Allora, torniamo a bomba, abbiamo un governo. Il governo si deve prendere la responsabilità e non deve incominciare già adesso a scaricare sulle regioni e sui comuni la responsabilità di quante e sui medici di quante vaccinazioni si faranno al giorno. Non ho capito che campagna dovrei fare. Cioè, diteci il vostro programma. Non è una campagna radiofonica. Lo ha detto lei. Fateci sapere. Fateci sapere in maniera chiara qual è il programma di vaccinazioni. Un cronoprogramma. Capito? In modo che noi comuni mortali, lo sappiamo e facciamo il conto della serva. Questo mi sembra un appello di buon senso, cioè a parte il cialtrone è un giudizio molto molto duro che non condivido, nel senso che ci vuole sempre rispetto pur nelle critiche. Gianfranco dice fateci sapere in maniera chiara e precisa il programma di vaccinazioni. Questo mi sembra una richiesta legittima. lo faranno sapere, spero. Sicuramente ci saranno degli inghippi, dei problemi, delle burocrazie da superare. In Italia si ammaestra in questo. Non andiamo però sempre a cercare anche questo. Fa notizia l'inghippo da esacerbare. Va bene, ci saranno dei problemi, siamo anche noi flessibili, cerchiamo di adattarci e vediamo di fare il meglio. Traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Scusate, ma chi ha paura dei vaccini per gli effetti collaterali ha mai letto un bugiardino di qualsiasi farmaco che abbia mai preso in vita sua? Allora a questo punto buttiamo via tutte le medicine, facciamola finita. Viva i vaccini! Ma voi immaginate se la penicillina fosse stata inventata quest'anno, no? No, io non mi inietto una cosa proveniente da una muffa. Le case farmaceutiche ci guadagnano sopra. Ci possiamo curare anche con le spezie, ma non ce lo vogliono dire. Questi vogliono iniettarci la muffa nel sangue per ammazzarci tutti. Variante 1, nessuno, 100 Milan. Vabbè, la variante inglese. Leonardo, vi ripeto, straordinario romanzo di Graham Greene. Io voglio leggere quella, la variante inglese. Hai sentito Leonardo? C'è la moglie del soldato inglese, il medico del celio. Sarebbero tutti straordinari titoli di spy stories. Per rispondere all'ascoltatore di prima, sì, riguardo i bugiardini, io ne avevo imparato uno a memoria. È vero. Un comunissimo antinfiammatorio. Ma te lo ricordi comune, il pezzo? Certo, mal di testa, nevralgie, cefalee, sindrome di Steven Johnson, necrosi epatocellulare, pancreatite, depressione, convulsioni, atassia, anemia megaloblastica, alterazione al metabolismo dei folati, leucopenia, leucocitopenia, morte. Vabbè, il bugiardino di un comunissimo antinfiammatorio. Lo ricordo a memoria. Amici ascoltatori, allegria! Leonardo da Livorno. Allora, lo utilizzavo sempre, sì, tuttora a volte lo utilizzo nelle prove in microfono prima dello spettacolo. Certo, è vero. Per vedere la reazione dei fonici e degli organizzatori. Sentiamo, per fortuna che è un comico. Leonardo da Livorno. Dai, vai, vai, Leo. Buongiorno, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, no, per quanto riguarda la variante inglese, sì, e altre mille varianti, io sono agente di viaggio e volevo un attimo dirvi il disagio che abbiamo noi nel rapportarci con le chiusure aeroportuali giornaliere. Mm-hmm. Cioè noi abbiamo persone adesso bloccate in Inghilterra perché legittimamente col tampone potevano volare e sono partite con magari le compagnie low cost che ancora volano, perché magari quelle nazionali come la British Airways addirittura rimangono insomma, sì, collegate solo con un aeroporto, e sabato sera noi che non abbiamo la palla di cristallo ci svegliamo, cioè insomma guardiamo i notiziari e vediamo voli cancellati, quindi niente. Ora spero, Milan, che tu non dovrai far la conta come i pescatori in Libia con le persone bloccate in Inghilterra. No, però, insomma, è un altro tipo di situazione, purtroppo così, è generata da questa precauzione estrema, come ci ha spiegato il professor Bucci, forse esagerata, forse no, sta di fatto che appunto ci ha spiegato che c'è la variante ceca della Repubblica Ceca, Le Monde dice che c'è la variante sudafricana, allora che dobbiamo fare? Però se hanno bloccato tutto, capisco Leonardo la difficoltà. Passiamo a un altro Leonardo, a te caro Bonetti. Allora ormai si avvicina la fine dell'anno che sarà inevitabilmente ricordato come l'anno del Covid. Covid che aveva iniziato la sua storia abbastanza in sordina nei TG italiani. Era là, in Cina, si diceva che un pipistrello fosse stato la causa di tutto in qualche wet market di Wuhan. Sembrano passati 1000 anni, ma era solo un anno fa. Guardavamo i cinesi con sospetto. Se si incrociava un cinese per strada, qualcuno cambiava strada. Le persone cominciavano ad andare più dai barbieri cinesi. Anch'io, che normalmente vado da un barbiere cinese per farmi rasare la testa, cominciavo a passeggiare avanti e indietro davanti a quella vetrina per decidere il da farsi, combattuto tra il risparmio cinese e la possibilità ipotetica di contrarre il virus. Poi comunque entravo, sono sincero, più per risparmiare che per non discriminare. Poi il virus è arrivato a Codogno e a Vo Euganeo e le persone hanno cominciato a interrogarsi, a porsi domande di ogni tipo, come lo si prende, che effetti dà, ma soprattutto dov'è Codogno, dov'è Vo Euganeo. Poi i primi virologi sono comparsi in TV, prima del coronavirus per molti di noi. I virologi erano come gli unicorni, se ne era sentito parlare qualche volta, ma non si erano mai visti. Forse erano considerate creature mitologiche. Invece poi di colpo l'invasione, non c'era trasmissione e tuttora non c'è trasmissione dove non fosse presente almeno un virologo, meglio se due, il virologo buono che rassicura e il virologo cattivo che ti dà la mazzata. Le persone che fino al giorno prima erano abituate a fare il tifo per le squadre di calcio cominciavano invece a fare il tifo per i virologi o per i vari scienziati. Io tifo Galli, no, io Zangrillo, come fossero squadre di calcio. Una meraviglia per i talk show televisivi che potevano facilmente rimpolpare i palinsesti con personaggi mai visti prima in TV. Intanto il virus cresceva, infettava, causava dolore in tante persone. Dopo dichiarazioni ambigue da parte di alcuni virologi che ci hanno messo un po' a decidere che le mascherine servivano, abbiamo iniziato a mettere sulla bocca qualsiasi cosa perché allora le mascherine non si trovavano. E allora ci coprivamo la bocca con tutto, sciarpe, foulard, perfino carta da forno. Siamo andati in giro con la carta da forno sulla bocca come fossimo zucchine ripiene da gratinare. Intanto il governo varava task force una dopo l'altra per dimostrare che la politica serve finché non ci sono problemi veri. Quando si presentano allora servono le task force, o almeno questo è il messaggio che in qualche modo ci hanno fatto arrivare. Qualcuno dalle varie TV provava a convincerci di quanto fosse bello stare a casa, qualcuno cantava sui balconi, qualcuno esponeva striscioni con scritto «andrà tutto bene», e intanto i virologi si dividevano, bisogna stare almeno a 1 metro di distanza, no, 1,80 m, no, il virus può arrivare ovunque perché è trasportato dalle polveri sottili, e quindi cosa faccio, in casa cambio l'aria o no? Dovrei cambiare l'aria, sì, ma far entrare solo quella dove non ci sono polveri sottili. Era lockdown, si poteva uscire solo per andare al supermercato, per portare il cane a fare i bisogni, perciò ai cani non davamo più le classiche crocchette, li riempivamo di prugne, sperando in qualche minuto in più all'aperto. Poi d'estate il virus si è preso una pausa per ripartire in autunno, con le scuole che chissà se, come, quando riapriranno, anche a causa della variante inglese. Abbiamo quasi tutti seguito le regole, anche se noi cittadini siamo stati spesso colpevolizzati, accusati di fare la movida o lo shopping selvaggio. In realtà, invece, seguendo quasi sempre le regole dei DPCM che si susseguivano a ritmo forzato. E adesso siamo ancora qui con la speranza di un vaccino, di cure efficaci, e anche con la speranza di trasmissioni televisive più equilibrate che qualche volta, oltre all'allarme, diffondano anche serenità. Verrà, spero, tra alcuni mesi, un giorno in cui potremo finalmente gridare liberi tutti, senza provare alcun senso di colpa, ma finalmente con gli occhi pieni di gioia, dopo magari una giornata iniziata a fare shopping, proseguita con la movida e terminata con un bello spettacolo a teatro, come capitava di fare qualche volta, prima che iniziasse tutto questo, forse in quel wet market di Wuhan. E gli spettacoli a teatro, caro Leonardo, quanto ti manca. Adesso non ti voglio gettare la depressione Ieri ne ho registrato uno in streaming, ma è veramente strano perché insomma tutti gli spettacoli presuppongono la presenza del pubblico e quindi sì. Farne uno completamente, già il secondo che faccio completamente senza pubblico, sembra un po' strano, poi ci si abitua a tutto. È la nuova frontiera, insomma, ormai le comunicazioni sono di questo tipo anche dal punto di vista degli spettacoli. Ma e che differenza c'è? Terribile, immagino, tremenda. La differenza è che non sai se le cose che fai funzionano o no, perché soprattutto per gli spettacoli comici hai il riscontro col pubblico dal vivo della risata, quindi se dici una cosa non c'è bisogno della base amara, caro Peter. Sì, è perché quando hai detto non sai se funzionano o no, Peter sapeva la risposta. E quindi il problema è che tu dici le cose, fai i pezzi che tra l'altro in alcuni momenti hanno proprio la chiusa, no? Si capisce che è finito. Normalmente quando fai una cosa che prevede la chiusa dal vivo c'è l'applauso, diciamo, invece lì tu finisci. In questi casi cosa succede invece? E niente, tu finisci e poi dici ma, e poi ricominci perché non hai l'idea. Ma tu l'idea. Lo dici proprio ma. Tra l'altro. Dici, no, non lo dici. Allora, devo dire una cosa. Siccome so che Leonardo Manera ha fatto uno di questi interventi in streaming per una società nella quale lavora una mia amica che mi ha scritto, ma io non lo sapevo, mi ha detto guarda qui chi c'è, mi ha mandato lo screenshot di te, avevi una faccia effettivamente un po' amara in video, però mi ha detto è stato bravissimo, ha funzionato tantissimo, eravamo tutti contenti, però tu non hai mai sentito una risata, un applauso perché... mai, non si sente. Ma tra l'altro quando c'è il pubblico collegato, insomma, diciamo in diretta, ancora ti rendi un po' conto, vedi qualche viso magari in collegamento. Invece quando, come ho fatto ieri, registi in streaming per una cosa che andrà poi appunto qualche giorno dopo, lì proprio non hai la minima percezione. Ma non potevi chiamare Antonio Ricci e metterti qualche applauso finto? Magari lo metteranno in montaggio, non lo so, poi gli applausi finti. Questo è abbiamo con noi Leonardo Manera. Tutto così, tutto lo spettacolo. Io odiavo gli animatori di studio. Devo dire che in questo periodo un po' li ho rivalutati. Li ha rivalutati. Farebbero piacere. Averne tra l'altro, caso una cosa uno. Che ho fatto ieri, ad esempio, è completamente nuova. Quindi non ho nemmeno il riscontro, diciamo, delle puntate precedenti. Non si saprà. Vabbè, dai, secondo me è andata così. Andiamo al giornale radio, va. Mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì. Parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Uno, nessuno, 100 Milan. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Rock duro. Allora, signore, sono le 10:08 minuti, questa è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Caro Leonardo Manera, come va? Tutto bene? Sono qui, ho mangiato una fetta di salame, ora. È molto importante che tu ci tenga aggiornati sulle tue, come dire, caffè. Condizioni oggi? Al frigorifero, caffè, sono anche uscito prima a prenderne uno, e quindi sono, direi dal punto di vista alimentare sono a posto. Sei a posto fino a domani. Ho anche della peperonata già pronta in frigorifero. Ah, e che è successo? Come antica mai? Ricetta piemontese. Già fatta. Antica ricetta piemontese. Cioè, hai comprato la peperonata già fatta. Ma tu cucini qualcosa? Scusate, questo è un momento di grande interesse per tutta la nazione. Cucini qualcosa per te o prendi solo cose già fatte? Allora, quando sono da solo prendo quasi solo cose già fatte, quando con me per esempio c'è mio figlio cucino qualcosa, sono responsabile in questo senso, cioè mangio schifezze per me e cose un po' meno schifezze le cucino per mio ma figlio. Ma perché per te solo. Mai? Perché per te mai un giorno che ti fai, non so, mi faccio perché un ragù? Perché mi annoio a cucinare. Annoio. Una pasta, una pasta in bianco. Qualche volta con sopra un po' di pan grattato. Però per me può raramente, mai. Accogliamo in questo carne clima. Poi mai, ma carne la cucino mai per me da solo. Però appena mangiato il salame, vabbè, quello tagli una fetta. Perché è già pronto, non è che ho qui il maiale in cucina, lo seziono e poi ne faccio il salame. No, però la peperonata dovrai scaldarla. Scusate cari ascoltatori, lo so che questa cosa può non interessare nessuno, ma io non voglio prendermi cura. Che pascolano. No, lo so, ma la peperonata dovrai scaldarla. Dovrai scaldarla, quindi tanto vale, visto che devi prendere il gesto della padella. Non si scalda, no, la tengo in frigorifero, poi ogni tanto e la mangi da frigorifero, la mangi, ti rimane sullo stomaco. Sì. Vabbè, per ora lo stomaco tutto per, pur di non chiamare in causa Anacleto, io lo faccio tutto per dilatare il dialogo con Manera. Beh, eccolo qua, Anacleto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, in particolare a Luisa e a Elsa di Chiesino Ozzanese. Tutti gli italiani di fare un buon Natale, compreso voi. Ora inizi, si spara a dubischerare. Sì, bravo, inizi a fare i saluti alla Luisa, a chi? Sì, Luisa ed Elisa. Elsa. Poi dopo le incontri in piazza, ecco, certo, vedi, ti ho salutato alla radio. Sì, comunque che sono anche vostre assidue radioascoltatrici, come dici te. Salutiamo Luisa ed Elsa, grande Luisa ed Elsa. Salutiamo anche il direttore della banca di Chiesino Ozzanese. Di portare il vino mi ha detto un ducentino, meno male, erano quelli che ci volevano, avevo finito già la tredicesima. Grullo. Tu lo corrompi col vino poi qua mi è rimasto alto anche quella, la cassiera che è molto amica di Lorenzino, gli mandai una foto. Salutami Lorenzino quando lo vedi. La cassiera della banca di Chiesino Ozzanese, sì, che ora non mi sfugge il nome, comincia con la E ma non me lo Elena, ricordo. È vero. Sentite, ora sei un quarto d'ora per sentire se riscalda la peperonata Leonardino lì, che va, sappite, è tutta roba regalata, non fa nulla lui. Questo è vero. Visto c'è una reclama nella televisione che lascia quel bambino il pacchettino davanti agli appartamenti, fanno uguale a Leonardo, li mettono lì i pacchettini e poi mangia ogni cosa. Ma Anacleto, come si fa in zona rossa lì alla Chiesina, i bar chiusi, ci saranno delle cose losche? Fra l'altro, c'è un personaggio della Chiesina, Giolo lo Spagnolo, che è disperato, perché lui se non tiene le carte in mano almeno 20 ore e sta male. Ora hanno trovato di giocare in giardino. L'altro giorno li trovai che giocavano su una panchina. Bisogna che giochi a carte e di soldi, perché se no non giocano. Perché per divertimento non si gioca. Le bische, Ramino, capito? Brigio, come si chiama noi per in qua? Sì, hai capito, sì, Grullo? Sì, anche te. Ma dove vai ora? Ma dove vado? È tutto chiuso, Anacleto, anche te non vai da nessuna parte, ti hanno chiuso tutto. Ma hanno chiuso, domani c'è l'ultima uscita, poi visto come mi mettono in chiusa come gli uccelli, no? Perché poi se li metti fuori un cantano, hai capito? Invece ora mi mettono in chiusa e sto male. Ho smesso di bere perché non posso sentire più alcolici, un bicchiere di vino a pasto, perché non mi ci va nulla, sono calato 7 kg. Eccedevi un po' con gli alcolici. Attenzione, perché c'è l'esame ad Anacleto. D'altronde hanno fatto l'esame a Suarez, portare Cocumel, eccetera. E io sono più ignorante di Suarez. Lo so, questo si sa. Però ci hai dato il vocabolario Val di Nievolino italiano. Ce l'hai mandato tu. Sono preparato perché sono sempre in pigiama io. Ce l'hai mandato tu, dai, questo è un verbo, ganza. Ganza, c'è diverse interpretazioni. Ora, a Leonardo gli posso fidanzare la fidanzata. Esatto. Cioè... E te gli puoi fidanzare la moglie, capito? Condurre una relazione amorosa illecita. Bravo, vedi che Anacleto... Oh, ragazzi, guarda che qua... Perché a me mi è successo, no? C'era un mio amico che mi cantava la moglie e poi è scappata con lui, sicché vedrai... È successo così nel lontano 82-83, mi cantava la moglie, a me, hai capito? Verità mangiare, non so un bugiardo come lui lì accanto, a gagliare con me. Questo qua, vediamo, se sai questa, veramente, se sai questo, cioè sei proprio promosso. Il granchiassecco. Il? Granchiassecco. E quando io sempre nel contesto, sarà quando ti casca un mattone e ti rimane un po' di... Più o meno un piccolo ematoma quando ti strizzano il lembo di pelle, ti fanno il pizzicotto, il granchiassecco. Brava, con le pinze o figli un mattone ti casca, ho fatto anche un po' di muratore, credo, che credi? Quindi ti rimane un granchiassecco. Un granchiassecco, oggi sono preparato, sono sveglio, lucido come un mobile. E poi c'è l'esclamazione, i boia. Boia. Che schifo, che schifo. Il boia. Boia, dobbiamo a Livorno, boia. Vabbè, insomma, hai passato l'esame, ora devi passare un Natale blindato, mi raccomando. Mi 4 giorni a casa, poi ritornerò un po' alla chiesina, fa un blizzettino, a vedere se giona a carte, perché te fa conto che lunedì 20 27 hanno le carte in mano, ecco. 28 hanno le carte in mano, un giardino da qualche parte sono a giocare, vabbè, bravo Anacleto, passa un buon Natale, anche a tutti voi le bimbacce, la redazione, via, tutta la ganga, non bere troppo un bicchiere a passo, se quando riaprano vengo su, dai. Questa è la promessa che dobbiamo fare. Ma certo che ti vogliamo. Allora io vengo con piacere. Tu sei buono, ti porto biscotti di prato, ti porto una bistecca di Benito. Ma sta buono, non ti pare vero se vengo. È un grullo. Ci mangi 15 giorni con una bistecca di Benito. Ciao Anacleto, fai bravo. Per me fermarti a Melegnano comunque. Buon Natale a tutti. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora vuol dire che mezzo mondo ha chiuso le frontiere a chi proviene dall'Inghilterra per una cosa che è fondamentalmente una trovata giornalistica? Cioè, a livello dei governanti del mondo funziona la stessa cosa della chiacchiera da bar? Quest'anno a tombola 37 a febbre, 19 o Covid e 20 un anno di me. Chi vuole capire capisca. Ah, la nuova variante inglese è il nuovo coronavirus. Vabbè, c'è anche un pizzico di ironia dei nostri ascoltatori che io capisco, no? Per esorcizzare. Sono le 10:20 minuti, ora io ho molto piacere di parlare con un campione che ha regalato tante gioie agli italiani, e questa è una premessa importante da fare, perché molto spesso tutti ad applaudire quando vinceva e diventava campione europeo, quando vinceva le medaglie alle Olimpiadi a Seul, quando ha vinto tante gare dei 5.000 e 10.000, e poi quando si tratta di raccontare le sue difficoltà di salute legate purtroppo all'epilessia, insomma, a quel punto tutti un po' silenti. Totò Antibo, buongiorno, grazie Totò. Buongiorno, ciao. Grazie Totò, grande campione che tanti ricordano quando correva e vinceva in pista. Ora però in una situazione legata all'epilessia mi sembra molto molto grave, con l'appello di dire aiutatemi, ho bisogno di un'operazione, ma non si riesce a fare. Com'è la situazione, Totò? Ma sono in una situazione molto difficile, perché sappiamo che l'epilessia è una malattia anche abbastanza grave. Certo. Perché io vivo con 60 crisi al mese e credo che vivere con 60 crisi al mese epilettiche si può rischiare anche di morire. Io non dico e non voglio aiuto da nessuno. Ho sempre fatto tutto da me, come quando correvo. Anzi, devo dire, ho avuto l'aiuto di un mio grandissimo amico quando mi aiutava, quando mi allenavo, da Mauro Biagetti, che è come se fosse un fratello per me. Però adesso la situazione si è aggravata molto di più, perché prima arrivavano soltanto 2-3 crisi, ma adesso siamo arrivati a 60 crisi al mese. La gente non si può dimenticare di un ragazzo che ha dato tanto all'Italia. E anche il sistema sanitario, perché è chiaro, viviamo in una situazione di grande difficoltà per il Covid, però il sistema sanitario, Totò dice non chiedo aiuto a nessuno, però il sistema sanitario, pagando le tasse, sì, voglio dire, visto che c'è un'operazione che si può fare. Ma questo non lo riesco a capire neanche io, perché hanno rifiutato i 37 miliardi che potevano prendere e aiutare la sanità, praticamente, perché è una delle cose più importanti. Perché io non guardo soltanto Salvatore Antibo, ci sono tante tante persone che soffrono di tantissimi mali che hanno di bisogno. Se già abbiamo perso 70 milioni di persone per il Covid, praticamente per il coronavirus, 70.000, ma sì. Perché praticamente devono morire altre persone? E qui in questo caso si deve fare l'esame di coscienza d'Italia. Ma come mai col Servizio Sanitario Nazionale non si riesce a fare questa operazione? Qual è il motivo che viene dato? Questo, guarda, questo è una cosa che non lo riesco a capire neanche io. Questo tipo di intervento che si doveva fare su di me, praticamente si poteva fare soltanto per posti. Uno era Milano, uno era Monza e uno era Catanzaro. Praticamente in quel periodo potevo anche andare a Milano, che era uno dei posti più importanti, ma c'era praticamente la zona rossa, che la situazione mia era molto grave, perché io non soffro solo di epilessia, ricordiamoci che sono uno che soffre con l'asma e i polmoni non respirano tanto bene. Se io avrei preso addirittura il coronavirus, in due giorni sarei morto. Sì, cioè è quella situazione per cui le strutture dove si può fare l'operazione sono dedicate al Covid, però così si dimenticano anche tutte le altre malattie, tutte le altre persone che soffrono. Quello che ho detto prima, già sono morte tantissime persone nel mondo, dobbiamo continuare così. Ci sono bambini, persone anziane che hanno tanto di bisogno. Niente, perché il governo si stia comportando così? Questo per me non è un governo. E allora cerchiamo, praticamente, io non voglio offendere nessuno, non voglio offendere Conte, non voglio offendere assolutamente persone che praticamente addirittura mi vogliono tanto, ma tanto bene, perché a me attualmente, nonostante tutto, dopo 30 anni ho 35 anni che non corro più, mi arrivano telefonate di tutto il mondo, persone che mi chiedono di non arrenderti, cerca di combattere, andiamo a vedere praticamente sui telefonini praticamente quello che hanno scritto su di me, praticamente dicendomi Totò, tu hai fatto, vi hai vinto tutto, stai a combattere, cerca di combattere anche questo male. Ma Ma Totò, l'idea di andare all'estero per un'operazione, no, ma non lo dico per un sentimento, per carità, anti-italiano, ma in una situazione di difficoltà, magari qualcuno che dice prendere un aereo dove si può andare all'estero. Lo so, praticamente, che potrei anche andare all'estero, però io non so dove dovrei andare. Questo non dipende da me, dipende dai medici. Certo. Praticamente, sarei... avrei fatto tutto io da solo, sarebbe stato anche bello, ma guarda che io voglio dire una cosa, Totò non c'è più, Salvatore Antibo c'è adesso, ma il Totò Antibo, quello che correva, è morto, Totò Antibo è al cimitero. A me dispiace dire questo, ma un giorno praticamente l'Italia si deve fare l'esame di coscienza per come si stia comportando verso nei miei confronti. Perché io ho dato tantissimo nella mia vita. Dio mio, è morto Maradona, è morta, ricordiamoci, di Pantani. Dobbiamo fare morire anche Salvatore Antibo. Ma perché dici, chi come dire, non ti dà una mano o ti ha voltato le spalle? Ma guarda, io, il mio professore, che è il professor Meccarelli, sta facendo in tutti, in 10 anni, mi sta aiutando in tutti i modi. Ho preso tutti i farmaci per cercare di guarire e cercare di diminuire soprattutto la malattia, perché io sono stato anche al Carlo Best di Milano, praticamente, dove sono stato ricoverato e mi hanno detto: Totò, non potrai mai guarire, la malattia te la devi portare a vita, l'unico modo è che un giorno avrai un aiuto, c'è cioè più che un aiuto, praticamente una fortuna che esce fuori, un farmaco che ti porterà fortuna, perché guarire no, te lo certo. Puoi dimenticare. E allora questa operazione a cosa serve? A ridurre le crisi epilettiche? A ridurre... Sì, bravissimo, questa operazione, questo intervento che si dovrebbe fare è per ridurre le crisi. Se questo intervento si potrebbe fare apposta di arrivare a 60 crisi al mese, ne potrebbero arrivare 10. Certo. Vivere diversamente, perché guarda che io vivo a casa. Io sono seduto attualmente in un divano e guardo sempre tutti i giorni il televisore. Se io dovrei andare a comprarmi un paio di pantaloni, dovrei andare a mangiare un gelato d'estate, dovrei andare in vacanza che neanche ci posso andare, deve avere sempre una persona accanto. È chiaro, perché se a me mi arriva una crisi, io cado per terra, sbattendo la testa rischio anche di morire. Io non voglio essere aiutato, assolutamente, no, non chiederò più aiuto. No, chiede ciò che qualsiasi persona malata ha diritto dal sistema sanitario nazionale, fare questa operazione. Ma ha il diritto, tocca il diritto. Se l'Italia è veramente l'Italia, quella che era una volta praticamente... E l'Italia deve aiutare le persone, non Salvatore Antibo, deve aiutare tutte le persone che soffrono di un certo male, di tumori, di malattie gravi, di bambini che soffrono in una maniera incredibile, di Salvatore Antibo che soffre di epilessia, perché non soffro soltanto io che ho l'epilessia, ma ci sono altre persone che hanno epilessia, perché l'epilessia non è soltanto una. Ci sono tanti tipi di epilessia. Certo. E allora praticamente l'Italia che cavolo sta facendo? Ma quindi si aiutano soltanto loro? Non è stato possibile prenotare questa operazione col Servizio Sanitario Nazionale? No, ma io non lo so. So che me la dovevano fare praticamente a Catanzaro, perché in quel periodo volevo andare a Milano e Monza, ma era codice rosso. Da giugno che aspetto, ma non ho ricevuto nemmeno una telefonata. Ma si devono vergognare un po' tutti. Ma chi sono io? Cosa sono stato io? Cosa ho fatto io per l'Italia? Sì. A me adesso non me ne frega più niente. A me, guarda, a me dispiace dirlo. Io sono contento anche di morire. Io adesso non voglio assolutamente niente, non voglio essere che mi fanno neanche l'operazione. Vivrò con la malattia, vivrò con 60 crisi di epilessia, che piano piano sicuramente andranno ad aumentare, perché i farmaci non fanno più nulla. Ho provato tutti i farmaci del mondo, praticamente. Ho girato tutto il mondo, perché non potrò guarire. Posso solo praticamente essere aiutato soltanto a diminuire le crisi. Ma io non chiederò mai più aiuto a nessuno. Questo lo capisco, il momento di scoramento. Io invece spero davvero che, magari anche sentendo qui, che ci sia un sussulto a dire: ma come? È un'operazione? Quanto è complicata questa operazione, Tibo? Ma non è più che altro un'operazione, un elettrostimolatore vagale. Elettrostimolatore, sì, vagale. Che viene inserito vicino al nervo vago. Esatto, che praticamente, che quando sta per arrivare la crisi, la dovrebbe bloccare. Ok. Ma non è che sempre la blocca. No, mi chiedo, quando la ferma. Certo, mi chiedo se sia un'operazione complicata, non lo so se sia un'operazione complicata, delicata, che richiede tanti giorni, oppure se è un'operazione devono essere almeno 10 medici accanto. Uh-huh. Ed è una cosa molto delicata, sono un ragazzo che so combattere, non ho paura. Mi volevo anche operare credo 20 anni fa, o 15 anni fa, a Milano, Carlo Bessi di Milano, ma tutti i medici che erano lì praticamente mi hanno detto: Salvatore, anche se ti operi, guarda che non guarisci, rischi, certo, di morire e di rimanere nella sedia a rotelle, i farmaci li devi prendere lo stesso, vuoi fare questo? Io gli avevo detto di sì, ma quando è arrivato il momento di fare questa operazione, che allora si doveva fare sul cranio, non si doveva fare quella di adesso, attenzione, nella era scapola, ben diverso, adesso. Perché io ho delle cellule morte sul cranio, praticamente, che crea questi problemi, con delle cellule bianche che sono buone, si vanno a incrociare e crea queste crisi epilettiche. Sì, sì. Totò, io mi devo fermare, ringrazio Salvatore Antibo, spero davvero che la situazione invece si sblocchi in maniera un pochino positiva per te, ci risentiamo, promesso, intanto andiamo alla borsa. 1, nessuno, 100 Milan. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the Alino e Manera, io vi augurerei anche con Natale, però non so come sarà, quindi lo scavalco e vado a Pasqua. Buona Pasqua! Allora, alle 10:38 minuti abbiamo ancora nelle orecchie, insomma, il racconto Leonardo di Salvatore Antibo. Tra l'altro voglio ringraziare Laura, ci ha scritto... Tra l'altro ci ha scritto da un ruolo e da un luogo importantissimo, perché lavora al Quirinale, alla Presidenza della Repubblica, e ha chiesto di poter scrivere, insomma, in questa vicenda di Totò Antibo, e noi ovviamente daremo a Totò questo impulso, questo stimolo. E, grazie Laura. Serve ricordare che, insomma, oltre al Covid ci sono tante altre malattie, sì, che, sì, hanno necessità di essere curate anche in questo periodo. E ovviamente, come ha detto Totò, l'ha detto più volte, lui non è che è diverso dagli altri, lui è come tutti gli italiani, semplicemente queste battaglie a volte si fanno e ci sono delle persone che magari sono più riconoscibili, ma portano avanti le istanze di tutte le persone sofferenti, di tutte le persone malate. Mohammed da Modena, buongiorno. Buongiorno a te e tuo collega, complimenti per trasmissione. Grazie. Io ti chiedo solo una cosa, stai un nervoso della Madonna, guarda. Perché? Di dove sei originario? Allora, comunque vivi in Italia, perché io sento italiano dopo 32 anni. Secondo te vado in Africa, cosa fai in Algeria? Algeria. I miei figli nati qua. Sì. Il mio figlio fa anche prof. E secondo te, io 32, 28 anni che sopra il camion pago le tasse, ancora c'era il permesso di soggiorno, la carta di soggiorno. Cioè i figli? I figli hanno ancora... Sì. C'è mia figlia che prima dell'anno ha fatto 18 anni. Sì. Per andare al comune e chiusa. Chiama, prendi appuntamenti, per lei c'è, prendi cittadinanza italiana. No, non ce l'abbiamo tempo, noi siamo chiusi. Vabbè. Io 5 anni che ho fatto la domanda, 4 anni, 5 mesi che ho fatto la domanda, la cittadinanza, chi paga le tasse, ancora non ha risposta nessuno. Okay. Signore Suarez, vieni dall'altra del mondo, dall'altra parte, che non capisci. Ma lui neanche a mezza paroletta. Ma andiamo, lui... Bella, posto. Bella, posto. Ma lui, Mohammed, lui porta cocumella. Comunque ti dico, viva la Juve. Questo mai. Devi imparare, Mohammed, a giocare bene a pallone. Esatto, poi vedrai che esatto. Magari avrai qualche facilitazione. Se più. Tuo figlio giocasse a calcio e guadagnasse 10 milioni di euro all'anno. All'anno. Guarda, mi e volesse che ne so andare in Germania a giocare, magari in Germania diventa ma non può andare senza cittadinanza, non può andare in nessuna parte. È vero. Tanto è qua un marocchino, chiama un cammello, chiama clandestino, non lo so come chiamare, a me non lo so neanche io dove vieni adesso, per dire. Sì. 32 anni, comunque sta entrato negli anni 90 col contratto qua in Italia, dopo 2 anni preso il camion che faccio l'autista, adesso si sopra il camion. Sì. Ti dico e sto ancora col permesso di soggiorno. Stupendo, ma grande amarezza, no? Leonardo, di tu a qualcosa a Mohamed che vede Suarez che arriva qui e dice io giocare calcio, io c'è fare. C'è poco da dirgli per stemperare la sua amarezza, ha ragione Mohamed. Tu quindi non hai ancora il permesso di soggiorno? Cioè, no, ce l'ha, sì. No, ce l'ha, ma non ha la cittadinanza. Non ha la cittadinanza. Sì, scusa, volevo dire, non hai ancora la cittadinanza dopo 32 anni che sei in Italia? Sì, anni 90, fai il conto dagli anni 90 fino ad oggi. Adesso questo è veramente incredibile. Però quando l'hai chiesta formalmente, non subito? 4 anni e 6 mesi. Da 4 anni e 6 mesi, quindi. Chi ha fatto la domanda? Sì. Perché certo. La prima domanda, no, ma io ho fatto la domanda prima, solo che loro, risposta che io abito in Senegal. Ho detto no, io non abito in Senegal, io abito in Algeria, nato in Algeria. Allora niente, quanto ha fatto un avvocato a Brescia, è un avvocato che conosce, lo sai, tanti per i soldi, funziona tutto per i soldi, dice signor Mohamed non può perché tutta la pratica bisogna fare un'altra volta, torna in Algeria, il consolato d'Italia fa tutti i documenti, porta qua, adesso 4 anni e 6 mesi ancora non esiste mai nessuno. Anni e 6 mesi e chi 4 minuti e mezzo, insomma, e vabbè, Mohamed, però colgo un grande spirito positivo pur in questa amarezza, mi sembri una persona ottimista. E quindi un grande abbraccio a Mohamed da Modena o dall'Algeria, ma comunque o dal Senegal. Italiano dal Senegal, ma italiano comunque, italiano nel cuore. Stefano da Roma, buongiorno Stefano. Buongiorno Milan, buongiorno a che tutti, ci anche agli ascoltatori. E dunque niente, ecco la testimonianza delle persone che ci hanno preceduto, questo signore Salvatore Antibo, insomma, sottolineo ancora di più quello che volevo dire, cioè che purtroppo in Italia l'articolo 32 della Costituzione, cioè l'accesso paritario ed uguale alle cure per tutti i cittadini, non esiste più da molto tempo. Cioè, in pratica, quello che dice Alessandro Gassman, fatti un'assicurazione se vuoi stare tranquillo. Perché non facciamo pubblicità. Io non ho detto qual era, però insomma, la vediamo tutti i giorni. Cioè, il sistema sanitario nazionale pubblico in Italia è come se non esistesse più, perché ci sono anche zone di territorio che non sono. Diciamo che non hanno nessuna sicurezza di accesso alle cure. Noi per esempio viviamo a due passi da Roma, in un territorio di 500.000 abitanti, abbiamo un ASL completamente bloccato dal Covid, vabbè, non abbiamo più neanche un reparto di pediatria per 500.000 persone. Questo è anche un periodo molto particolare, insomma. Poi Antiba è venuta a Milano, a Roma, a Milano, Monza o a Catanzaro, però... effettivamente è una situazione un po' particolare. Stefano, sono un po' di corsa, volevo andare anche da Vittoriano da Viareggio, grazie comunque per l'intervento. Vittoriano da Viareggio, buongiorno. Pronto, ciao, buongiorno a te Mila. Ciao, ciao Vittoriano. Un saluto anche a Leonardo, è fantastico. Grazie. Ascolta, ti volevo dire, ma avete dato il diploma di Toscano Doc a quel, come si chiama? Anacleto. Anacleto. Il nostro grande editorialista, il nostro grande amico. Sì, ma mi dici l'ultima parola che gli hai chiesto, che lui ha detto accidenti. Boia di Livorno. Sì, i boia. Per questo è i boia, il vocabolario, è il vocabolario che ci ha mandato Anacleto, Val di Nievolino italiano. Quindi allora digli Anacleto che ha sbagliato. Perché? Perché i boia è una classica parola viareggina. Che vuol dire mi fa schifo. E infatti anche nel Val di Nievolino i boia è un'esclamazione, vuol dire che schifo. Ma io l'ho interrogato, lui non era preparato sui boia. E lui ha dato un'altra risposta, ha detto la livornese boia de, ma boia de è un classico, come in Viareggio si dice della fia. A Pisa si dice boia de. Vabbè, non approfondiamo. Invece questo è i boia. Lei Vittoriano dice vuol dire non mi piace. Che schifo. Vabbè. Per esempio, com'è questa pasta? I boia. I boia. Si dice così Vittoriano. Com'è la pasta? I boia. Il boia com'è cattiva, non mi piace. Stupendo. E vabbè, ma d'altronde Anacleto io lo interrogo, lui mi ha mandato questo vocabolario e quindi io ogni tanto lo interrogo quando lo chiamiamo. Due le aveva azzeccate, devo dire. No, una l'aveva azzeccata, anche l'altro lì cos'era, il grattachecchio, cos'era quella roba là. Vabbè, dai, andiamo al traffico. Grazie Vittoriano. Donna, hai un marito o un fidanzato ipocondriaco che teme in modo eccessivo le malattie e ogni giorno si misura la febbre? Allora regalagli il termometro Bellugi, il termometro elettronico che anche di fronte a una febbre da cavallo segna sempre 36 e tranquillizza l'ipocondriaco. Termometro Bellugi è il termometro falso che migliora la vita di coppia. Uno, nessuno, 100 Milan. Ora per un carnevale sereno. Ma io oltre allo sfogo non ho colto come si può aiutare questa persona qui, e me ricordo quando correva. Cercate almeno voi di essere un po' più precisi, che se si può fare qualcosa si prova a fare. Ma caro ascoltatore, ce n'è un altro. Per par condicio potete anche far presente che c'è un altro modo, quello di comprarseli direttamente i passaporti, come fece l'Inter con Recoba, così, giusto per par condicio, visto che lì sappiamo esattamente come sono andate le cose. Sulla Juve ancora qualche cosina potrebbe sfuggirci. Grazie per la vostra par condicio. Guarda lì le code di paglia, ma chi è che ha citato la Juve in questo caso? Portare Cocumella. No, torniamo a questioni più serie, la questione Antibo. Non è che noi ne parliamo per fare qualcosa, cioè il nostro dovere da giornalisti è portare alla luce la notizia, poi non è che si possa fare qualcosa concretamente, a parte che appunto ci è arrivato l'invito a scrivere alla Presidenza della Repubblica, chissà, ecco, magari questo potrà portare degli sviluppi. Cosa può fare la persona, gli ascoltatori? Niente, intanto saperlo, essere informati, non è che possiamo fare concretamente salvare o fare l'operazione a Salvatore Antibo, magari se ne parliamo qualcuno si muove, ecco, tutto qui. Intanto è Natale ormai, c'è il DPCM, anzi il decreto legge. C'è il ministro Bonetti. Buongiorno ministro, la ringraziamo molto per essere qui. Grazie a voi per consentirmi di chiarire bene i termini di questo nuovo decreto natalizio. Bene, ce li spieghi. Grazie ministro. Certo. Prego. Bene. Bene. Vorrei intanto precisare che l'ordinamento politico non può assumere come implicita l'esistenza di discrasie condizionanti. Devi invece implementare un modello capace di estrinsecare il superamento delle resistenze dovute alle premesse iniziali per considerare come prioritario l'appiattimento delle mastole. Le che? Quindi. Mastole. Qua ci vuole. Alla luce di un'attenta valutazione del delicato equilibrio sul quale si regge la dicotomia salute-economia, abbiamo deciso di adottare una metodologia differenziata per segmentare i provvedimenti sulla base dell'effettiva accelerazione della curva epidemiologica. Con questo cosa voglio dire? Cosa voglio dire, infatti? Bene. Che nel nuovo decreto in vigore fino al 7 gennaio abbiamo introdotto regole molto semplici per facilitare i cittadini sulla mobilità, che ci aiuteranno a scongiurare la terza ondata. Cominciamo. Abbiamo delle ulteriori delucidazioni da esternare per rendere più chiaro ai cittadini come muoversi in questo periodo. Bene. Nei giorni feriali che iniziano con la M, si può uscire sempre, cioè martedì, purché la temperatura esterna sia compresa tra i 27 e i 29 gradi e non ci sia niente in TV. Ma perché? Naturalmente questo va scritto sull'autocertificazione, perché se c'è un film di Natale ma una persona si fa trovare in giro, le forze dell'ordine sono autorizzate a intervenire con provvedimenti sanzionatori. A me piacciono i film di Natale, a lei no? Non piacciono? Sì, certo, ma non capisco. Invece, nei giorni che iniziano con altre lettere tranne la G, inclusi festivi e prefestivi, possono uscire dal proprio comune solo coloro che abitano in un comune che abbia meno di 5.000 abitanti, di cui il 53% femmine, e in cui sia presente una targa in marmo che attesti il passaggio di Garibaldi. Beh, ovunque questa. È possibile recarsi nella seconda casa, purché si trovi nello stesso palazzo della prima. Beh, addirittura. E a chi mi chiede, è possibile visitare amici e parenti? Rispondo sì. Se sei un dottore. Adesso, ministro, anche fare un'ironia in questo momento difficile per gli colgo italiani. Colgo l'occasione per ringraziare a nome di tutti i cittadini italiani Rocco Casalino, portavoce capo dell'ufficio stampa del presidente Conte, che con il suo prezioso lavoro ci sta aiutando a capire di più in questo momento complesso. Sono consapevole che stiamo ancora chiedendo sacrifici, ma lo voglio dire con forza, noi non lasceremo indietro nessuno. E con l'impegno di tutti ne usciremo, purtroppo. Bene, questo virus corre molto velocemente, quindi noi dobbiamo chiederci come possiamo costruire una convergenza partendo dalla costruzione di un quadro di riferimento condiviso che accolga la partecipazione delle diverse forze in campo, soprattutto ove la ricognizione della domanda non soddisfatta trova la sua ragion d'essere nel contesto di un sistema basalfo. Sistema basalfo. Partendo da un'attenta valutazione dei 21 parametri decisi dal Ministero della Salute insieme al Consiglio Superiore della Sanità, vado a elencare le attività produttive che rimarranno aperte anche con il corrente decreto. Questo è un grande tema, Quindi, parrucchieri, sì, ove rimangono consentiti solo i tagli che non prevedono la frangia. Perché la frangia non è consentita? Mercerie? Sì. Purché la proprietaria... Che deve fare? Sia in grado di ballare Waka Waka di Shakira. Ma perché Shakira? E infine negozi di... sui negozi di abbigliamento. Negozi di abbigliamento. Ah, il personale. I cui commessi siano nati tutti nel luglio del 54. Ecco, sono scelte di buon senso. Sì, ma adesso è il luglio del 54, ma quale buon senso? Che crediamo possano aiutarci a contenere l'epidemia anche dal punto di vista della trumefezia. Pertanto, della trumefezia. In un contesto di forte disorientamento come quello che stiamo attraversando, auspicando una correlazione integrata tra le scelte a monte e a valle della situazione vontissibile, abbiamo introdotto nel nuovo decreto un provvedimento che consentirà di cenare anche in casa, anche in casa, solo fino alle ore 18. Ma come? E anche poi? In casa. Dovremmo chiudere, ministro, sì? C'è uno slogan di solito. Scegliamo la strada della prudenza perché sappiamo che è la strada giusta. Allora facciamo più merende oggi per cenare più forte domani. Vabbè, tanto per le commesse, grandi commesse, non le commesse, le mercerie. Si rilegga il decreto attuativo. Grazie, ministro. Con lei concludiamo e ci troviamo domani. Vabbè, tutto chiaro. This time for Africa, jungle, yeah, jungle, yeah, Samina, mina, sangalewa, anawa, basta metallari. Nessuno, nessuno c'è.